And I was down in Washington hiring my staff, and I got a phone call saying that my family had been in an accident. And just like you guys know, by the tone of a phone call, you just knew, didn't you? I don't know how I knew. But the call said my wife was dead, my daughter was dead, and I wasn't sure how my sons were going to make it. For the first time in my life, I understood how someone could consciously decide to commit suicide. Joe Biden, vicepresidente degli Stati Uniti, beh, sappiamo che qualche volta fa delle gaffe. In questo caso non l'ha fatta, anzi direi che ha espresso un pensiero molto toccante, si è rivolto alle famiglie delle vittime, dei soldati caduti in guerra e qualche giorno fa, parlando in un discorso, ha detto: beh, io so che cosa passate, immagino che molti di voi in una situazione drammatica come questa, quando vi muore un figlio giovane, un ragazzo, lo perdete per sempre, non torna più indietro, penso che alcuni di voi magari possano anche contemplare il suicidio. Io vi capisco, perché, e qui una importantissima rivelazione personale, non l'aveva mai fatta prima, io stesso ho contemplato il suicidio. Ricordiamolo, Joe Biden, giovanissimo, era stato appena eletto al Senato, fu colpito da una tragedia spaventosa. Parlando appunto alle famiglie di militari scomparsi in guerra, ha voluto ricordare questo suo episodio personale, successo il 18 dicembre del 72, subito prima di Natale. Pensate, Biden era stato appena eletto al Congresso, dunque doveva essere un periodo di straordinaria festa, ricevette una telefonata, la moglie e la figlia di un anno erano appena rimaste uccise in un incidente d'auto. Ecco, devo dire, a vederlo Biden mentre parlava con questi familiari era davvero commosso e si sentiva questa atmosfera di commozione.